Frère le sien a soupi m'échappe. Il s'éveille, il s'éveille. L'amour se réveille de rien. L'amour se réveille de rien. Aussitôt déployant ses ailes et ses 600 son arpangère, une de ses flèches, de ses flèches cruelles, en partant, il me blesse au cœur, il me blesse. Ho dovuto scrivere una sinfonia per i Concerts Spirituels. Avevo paura perché le prove erano andate male e non c'era tempo per ripeterle. Pensavo perfino di prendere il violino dalle mani della spalla e di dirigere io stesso. Siccome avevo sentito che qui a Parigi gli allegri conclusivi cominciano con tutti gli strumenti insieme e di solito all'unisono, io l'ho fatto iniziare piano con i due violini soli per appena 8 battute. Poi è entrato subito il forte. Il pubblico, come mi aspettavo, fece shh al momento del piano. Arrivò il forte. Ascoltarlo e applaudire fu un tutt'uno. Vi do una notizia che forse conoscete già. Voltaire, questo miscredente e famigerata canaglia, è crepato come un cane, come una bestia. Ecco la sua ricompensa. Salisburgo non è un luogo per il mio talento. Comunque, se l'arcivescovo Colloredo non mi autorizza a fare un viaggio ogni 2 anni, non posso assolutamente accettare l'incarico che mi offre. Un uomo di talento mediocre resterà mediocre, che viaggi o no. Ma un uomo di talento superiore peggiorerà se resta sempre nello stesso posto. Ci sono 2 cose che ti riempiono la testa e ti impediscono di riflettere. La prima e principale è il tuo amore per Mademoiselle Weber, al quale io non mi sono assolutamente opposto. Riprendendo servizio a Salisburgo, disti da Monaco soltanto 18 ore. E il signor Weber e sua figlia possono renderci visita ed abitare qui da noi. La seconda è andare in Italia. Anche per questo, entrare a servizio della nostra corte rappresenta l'unica possibilità di andarci. Monaco, 8 novembre 1780. Bisognerà di certo accorciare i recitativi dell'Idomeneo. A parte questo, ho una sola preghiera da rivolgere all'abate Varesco, il nostro librettista. L'aria di Ilia nel secondo atto, vorrei modificarla. se il padre perdei, in te lo ritrovo. Questa strofa non potrebbe essere migliore, ma una parte in un'aria. Questo mi sembra poco naturale. In un dialogo si può dire rapidamente una parte, ma in un'aria, quando si devono ripetere le parole, fa un cattivo effetto. Qualche altra osservazione. Nel primo atto, com'è possibile che un re si trovi tutto solo sopra una nave? Se l'abate crede che si possa ragionevolmente rappresentarlo abbandonato da tutti in una spaventosa tempesta, d'accordo, ma senza nave? Perché sulla nave è impossibile che sia solo. Qualche generale, qualche comparsa può sbarcare con lui, ma allora il re dovrebbe dire qualche cosa al suo seguito, ad esempio di lasciarlo solo. E nella triste situazione in cui si trova sarebbe ben naturale. E ancora, nell'ultima scena del secondo atto, Idomeneo ha tra i due cori un'aria, o piuttosto una cavatina. Ma qui sarebbe meglio inserire un recitativo, sotto il quale gli strumenti possono ben lavorare. Sarà la scena più bella di tutta l'opera. Ci sarà in palcoscenico un tale rumore, una tale confusione, che un'aria farebbe una pessima figura, una tempesta, i tuoni, e tutto dovrebbe fermarsi per un'aria. Recitativo del terzo atto tra Ilia e Idomeneo deve essere detto con molta forza alla fine, quando lei corre all'altare ma lui la trattiene. Allora lei va verso il sacerdote, si getta in ginocchio e prima che il suo discorso finisca, mentre dice a te, sacro ministro, il rumore sotterraneo le taglia la parola di bocca e tutti sono presi dal terrore. Farà un grande effetto sul pubblico perché la voce sotterranea incatena, coinvolge. Sì, ma è troppo lunga. Immaginate la scena. La voce deve essere terrificante, penetrante. Bisogna crederla vera. Come può fare questo effetto se è troppo lunga? Se in Amleto il discorso dello spettro non fosse così lungo, l'effetto sarebbe certo migliore. È facile scorciare questo discorso. Ci guadagna più di quanto ne perda. Pensare solo ai melomani, ma anche al pubblico non musicale. Sai bene che si trovano 100 ignoranti per 10 intenditori. E non dimenticare il popolare, quello che solletica le orecchie. Occupati della copiatura della partitura, non abbandonarla. Non raffazzonare il terzo atto, avrai tutto il tempo di finire. Per quello che si chiama il popolare, non dovete preoccuparvi. Nella mia opera c'è musica per ogni genere di persone, salvo per chi ha orecchie troppo lunghe. A proposito, che ne è dell'arcivescovo Colloredo? Cerca di mantenere l'orchestra di buon umore. Lusingala. Conservati le loro buone grazie. Io conosco la tua maniera di scrivere. Esige da tutti gli strumenti la più grande attenzione, in ogni momento. E non è uno scherzo reggerla almeno 3 ore. Anche la più mediocre delle viole è molto sensibile al fatto che ti complimenti con lui, tête à tête. L'ultima prova è stata magnifica. Ma il problema è che Raffe dal Prato, Idomeneo e Idamante, cantano il loro recitativo senza espressione, senza fuoco. Lo rendono monotono. Sono i peggiori attori mai portati su un palcoscenico. Devo tagliare le scene che li riguardano. Del quartetto Andrò Ramingo è solo. Raff mi ha detto: non c'è da spianare la voce, è troppo serrato. Come se in un quartetto non si dovesse parlare più che cantare. E allora gli ho risposto: amico mio, mi sono dato ogni pena per soddisfarvi nelle vostre 2 arie e mi sforzerò di farlo anche per la terza. Ma per i terzetti e i quartetti bisogna lasciare libera la volontà del compositore. Varesco è molto scontento e mi ha detto le cose più folli. Un mezzo italiano è peggio di un italiano vero. Spera di ricevere almeno qualche ducato in più perché ha copiato il testo 4 volte e ha dovuto fare un'infinità di modifiche. Dice, se lo avessi saputo non avrei mai accettato per 20 ducati. Dite da parte mia a Varesco che non otterrà un kreutzer più del pattuito. Le modifiche non sono state fatte per lui, ma per me. E di questo deve essermi obbligato, perché con nessun altro compositore ne sarebbe uscito così bene. Stento a trovare delle scuse per lui. Vienna, 8 aprile 1781. Vi scrivo per raccontarvi dell'Accademia di oggi. Sono stati dati 3 miei nuovi lavori. Un rondò per il concerto per violino di Brunetti. Un rondò per Ceccarelli, che ha dovuto bissare. Una sonata con accompagnamento di violino. I primi due li ho composti la notte scorsa, dalle 11 a mezzanotte. Per finire in tempo, della sonata ho scritto solo la parte di violino per Brunetti. La mia l'avevo tutta in testa. La sonata, di cui ora ascolteremo il terzo movimento, è la K380 in mi bemolle maggiore, pubblicata a Vienna nel novembre di quell'anno, il 1781. Antonio Brunetti era il primo violino dell'orchestra di Salisburgo. Eccellente esecutore, ma gran zoticone, stando almeno a come lo definisce più volte Mozart.